e per consuetudine abbiamo accettato ciò che ci è stato detto a riguardo. La maggior parte delle persone pensa che il Natale è la festa che secondo la tradizione religiosa cristiana si celebra il 25 dicembre e commemora la nascita di Gesù Cristo. Perché non è così? Pochi sanno che circa la data di questo evento gli storici non hanno mai saputo fornire elementi certi. Quindi, insomma, la festa del 25 dicembre sarebbe stata istituita per contrapporre una celebrazione cristiana a quella mitraica. Certo, giorno natalizio dell'invincibile sole. Infatti la festa pagana del solstizio d'inverno era una ricorrenza importante per gli antichi romani, che in quel giorno celebravano la festa del Dio Sole. La Chiesa cristiana scelse la data del 25 dicembre come giorno di nascita di Cristo semplicemente per cristianizzare una festa pagana molto sentita dalle masse popolari. Se non ricordo male, l'hanno fatto proprio perché non riuscivano a estirpare queste feste pagane e quindi le hanno inglobate dentro la loro cultura, giusto? Giustissimo. Infatti l'imperatore Costantino riunì il culto del sole, quindi una festa pagana, di cui era il figlio protetto, e il culto del dio Mitra con il cristianesimo. Ecco, infatti è sotto il suo regno che appare proprio la festa del Natale. E si menziona che per la prima volta tale festa cristiana al 25 di dicembre di un calendario liturgico romano del 354, quindi insomma siamo abbastanza indietro con il tempo. Tuttavia la celebrazione del Natale è già attestata a Roma intorno al 336. E una cosa importante è solo però sotto l'imperatore Giustiniano che il Natale viene riconosciuto come festa legale per l'Occidente. A tale tradizione, quindi, la celebrazione del Natale ha voluto collegarsi per indicare l'avvento della luce del mondo, quindi sempre ritornando a un discorso, diciamo, pagano, che giunge a squarciare le tenebre, quindi la luce del mondo che squarcia le tenebre, e il bambino, quindi torniamo nel cristianesimo, che venendo al mondo inaugura una nuova vita e porta la luce a tutti gli uomini. Questa è la storia del Natale, che convenzionata negli anni successivi da numerose leggende ha fatto quasi perdere di vista il vero significato del Natale come giorno della nascita. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. But then I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Oh, Natale. Guardo il presepe scolpito, dove sono i pastori appena giunti alla povera stalla di Betlemme. Anche i re magi nelle lunghe vesti salutano il potente re del mondo. Pace, nella finzione e nel silenzio delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio, la stella che risplende e l'asinello di colore azzurro. Pace, nel cuore di Cristo in eterno. Ma non v'è pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo, e sono 20 secoli, il fratello si scaglia sul fratello. Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino che morirà poi in croce fra due ladri? Questa è una poesia di Salvatore Quasimodo. E si interroga sul significato del Natale, si interroga sul se forse noi ci siamo dimenticati quale sia il vero significato del Natale. In qualche modo si chiede, non siamo forse diventati dei moderni Scrooge? Scrooge. Ve lo ricordate questo nome? A cosa si riferisce? Ci trasferiamo nell'Inghilterra dell'Ottocento, sì. Neve, freddo. Un bellissimo film fantasy del 2009, A Christmas Carol, può risuonare. Charles Dickens, bravissima. No, ecco. Scusate. Ripeti il nome dell'autore, ti prego, Nadine. No, è lui o non sì, è lui? Ma noi diciamo certo che è lui. All'appello è Dickens, Charles. Charles Dickens. Charles come il per principe tutti. O tra William, vabbè questo è un altro tema però, ne parleremo alla prossima. Ecco, e appunto per introdurre un po' il significato del Natale, secondo me questa è una delle storie più belle e significative rispetto al vero significato del Natale. Come diciamo si può vedere anche nel film, secondo me molto bello, in 3D, quindi è stato anche un po' una tecnica mista, 3D e poi invece animazione a computer, che parla veramente del significato profondo. Infatti anche Dickens, con questo romanzo, critica la società di quegli anni, dicendo che era comunque egoista, arrivista e non era, diciamo, generosa rispetto al prossimo. E parla proprio di questo Scrooge, di questo ticchio anziano, pieno di soldi, che però ha la fortuna, no, di essere visitato da alcuni spiriti. Ben tre spiriti, poverino. E tutti su un colpo. Però in realtà sì, può essere una cosa spaventosa, però in realtà sono loro che risvegliano e che lo fanno così, lo fanno riflettere su ciò che sì. Veramente, su come deve cambiare. Infatti diciamo che lui odia il Natale, odia le feste e non vuole assolutamente essere coinvolto, neanche emotivamente. Anche perché ormai non è più abituato a sentire il calore umano e quindi tutto quello che è felicità e calore umano col suo cuore che ormai è di pietra, dedito solo al denaro e quasi gli dà fastidio. Gli fanno paura, esatto. Sì. Forse non si mette in gioco in questo senso. Che è una cosa che accade molto spesso a molti di noi oggi, cioè anche noi, io parlo per me personalmente, alle volte mettersi in gioco e riuscire ad aprire il proprio cuore al calore umano è difficile, tanto che non ci si saluta. Però a Natale tutto è possibile, vero? A Natale tutto è possibile, infatti anche per Scrooge è stato così. Gli sono apparsi tre, diciamo, spiriti, il spirito del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. Il passato non si può cambiare, il presente è quello che lui ha visto e comunque gli ha risvegliato un senso, diciamo, di generosità rispetto al prossimo, e il Natale futuro è quello che lo ha fatto cambiare e poi gli ha fatto, diciamo, passare la festa del Natale tutti assieme, salvando anche il caro Tim, il figlio del suo contabile che stava male. Quindi è una bellissima fiaba di Natale che fa risvegliare gli animi alla gente. E che è una metafora anche per la vita, no? La vita è troppo breve per essere egoisti e quindi non è mai troppo presto per essere generosi. Bravissima. Poi la felicità alla fine degli altri genera anche la nostra. Bravissima. Ma ad ora passiamo ad un momento musicale e quindi vi lasciamo con la prossima canzone. I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come. il pelle rossa con le piume in testa e con l'ascia di guerra in pugno stretta, com'è finito tra le statuine del presepe, pastori e pecorine, e l'asinello, e i maghi sul cammello, e le stelle ben disposte, e la vecchina delle calde arroste? Non è il tuo posto, via toro seduto, torna presto di dove sei venuto. Ma l'indiano non sente, o fa l'indiano, se lo lasciamo dite fa lo stesso, o darà noia agli angeli di gesso. Forse è venuto fin qua, ha fatto tanto viaggio, perché ha sentito il messaggio. Pace agli uomini di buona volontà, Gianni Rodari. Questa poesia parla di presepio e parla del presepio che facevo io da piccola, cioè dove c'erano tutte le statuine del presepio e statuine che non c'entravano niente. E anche quelle, le Barbie. Sì, le Barbie, quelle di Sofficini Findus, oppure quelle di Kinder e di più. È più bello, originale. Perché scusa, il messaggio arriva a tutti, anche a chi in teoria non c'entra niente. Esatto, con poi il messaggio della casa alla fine è così il comprendere tutti, l'accogliere tutti. Ma voi muovevate le statuine facendo fare loro delle azioni? Assolutamente sì, e poi dal 1 gennaio i re magi cominciavano e pian piano si avvicinavano. Un centimetro al giorno. Assolutamente sì. E laghetti con la carta stagnola, sì. Oppure con gli specchi. Sì, di tutto ho provato. Il muschio vero, sì, anche. Bellissimo. Ricordo, preso sì. Proprio in mezzo a... Io andavo in montagna apposta, facevo la gita, il papà ci portava... Prendevamo il muschio per poi decorare le nostre tradizioni di Natale. Ma esatto. Voi, così, allora uno fa l'albero, si scambiano i doni, facciamo il presepe, ma sappiamo da dove arrivano queste tradizioni? Ce lo siamo mai chieste? No. Ho trovato delle cose fantastiche. Sì, adesso ve le dico. Allora, l'abete natalizio. Qui dice, furono le popolazioni germaniche ad iniziare l'usanza di addobbare un abete con ghirlande variopinte in occasione delle feste che venivano organizzate per il passaggio dall'autunno all'inverno. Verso però la metà del 1800 alcuni fabbricanti svizzeri e tedeschi realizzarono dei leggeri nonnuli, si dovrebbe dire così, di vetro soffiato. Quindi praticamente delle decorazioni un po' più importanti, proprio fatte apposta per l'albero di Natale. E qui dice che appunto insieme a queste cose di vetro soffiato c'erano dei nastri e delle candele che ornavano così l'albero. Ogni parte dell'albero di Natale è di provenienza pagana e simboleggia la speranza che dopo il solstizio d'inverno ritorni la primavera. E le luci ricordano le scintille del falò che brucia, le palline e le decorazioni simboleggiano il desiderio di prosperità, mentre l'albero, sempre verde, ricorda la speranza. Lo sapevate questo? Molto interessante, soprattutto il fatto delle palline di Natale perché luccicanti ricordano la prosperità. Sì, questa cosa. È sempre verde la speranza, verde speranza giustamente, no? Tutto torna, tutto, tutto torna. E poi, un'altra cosa interessante, il presepe, che ne parlavamo prima. Allora, l'allestimento del primo presepe è stata opera di San Francesco. Avete capito? Nel 1233 il patrono d'Italia preparò a Greccio un suggestivo presepe vivente, quindi insomma... Le pecore vere. Benissimo. E la cosa interessante è che in Italia i presepi di maggior valore sono tuttora creati dai maestri napoletani. È vero, c'è una mia amica che va ogni anno e vede dei presepi magnifici. C'era anche il presepe con Obama e Berlusconi, insomma, se uno vuole mettere anche il nuovo, ma quello possiamo anche tralasciarlo. Super attuale, insomma, io mi ricordo ancora la statuina di Maradona. E c'era anche Luxuria, mi ricordo. Vabbè, comunque, insomma, quella è un'altra storia. Però posso dire una cosa, sì. Cioè che al di là insomma del significato religioso del presepe, chi ci voglia credere o no, è bellissima secondo me questa frase che ho trovato proprio riguardo al presepe, che dice... Il presepe che poniamo a casa nostra ci ricorda che avremo nuovamente l'opportunità di essere e di mostrare la nostra vera essenza a tutti e a noi stessi, perché nel piccolo presepe in cui abbiamo abiti, in cui hanno abiti semplici oppure sono anche insomma proprio coperti da poco, si mostrano nella loro insomma essenza ed integrità, quindi è bello così a livello metaforico insomma questa cosa che ho trovato. E poi io direi di fermarci qui e di soffermarci sulla stella di Natale, lo scambio dei doni dopo la canzone. Deck the halls with boughs of holly, fa la la la la la la la. 'tis the season to be jolly. Fa la la la la la la la la. Don we now our gay apparel. Fa la la la la la la la la. Told the ancient Yuletide carol. Fa la la la la la la la la. Blazing, you'll be for us. Strike the harp and join the chorus. Follow me in merry measure. Eccoci qua dopo questa bellissima canzone super natalista. Concludiamo la nostra lista. Allora, la stella di Natale come simbolo di Natale, che cosa significa? Eccoci qua. La pianta simbolo del Natale è un arbusto originario del Messico, scoperto nel 1520 dagli spagnoli di Cortés, attuale città del Messico. E questa pianta, secondo la leggenda, è nata da un miracolo. Un bambino, molto povero, voleva fare un dono a Gesù e raccolse in un campo alcuni arbusti, formando un mazzo. Una volta entrato in chiesa, avvicinandosi all'altare, i rami che portava con sé si trasformarono in grandi fiori scarlatti. E quindi questa è, diciamo, la storia della stella di Natale, che ne vediamo a migliaia in tutte le salse, in tutte, diciamo, tutti i colori, anche bianche, rosa, è bello, quindi gialle. Il miracolo natalizio c'è stato veramente. C'è stato una, sì. Ed è stato anche un miracolo natalizio dopo che il bambino si era fatto un mazzo tanto a raccogliere. Giusto. Ma in Messico non ci sono i cactus. Ma a Lipstick Lagoon se ne scoprono delle belle, cioè poi voi non perdetevi una puntata, cioè. Ma poi, guarda che secondo me anche questi cactus poi diventavano rossi, quindi va benissimo anche quello. Bene. Secondo voi cactus o che altro c'era in Messico? Scriveteci e fateci sapere la vostra. Di legale. Di legale sicuramente. E poi lo scambio dei doni. Ah, che bello. Allora, durante il solstizio d'inverno gli antichi romani erano soliti a festeggiare il giorno 17 del mese di dicembre. Saturno era la divinità che assicurava il buon raccolto e la fertilità della terra, quindi prosperità, fertilità, tutte cose che comunque davano un senso positivo a questa festa. Ecco, durante questo periodo i romani usavano scambiarsi regali di natura alimentare. Sempre nell'antica Roma, durante la festa dedicata alla dea dei doni, ci si scambiava come buon auspicio per l'anno nuovo un ramo di un albero che cresceva nei pressi del Colosseo. Quindi praticamente è anche economico comunque cercare un ramo di albero. E infatti avevano questa bellissima idea che è quello che proprio si dice, non è tanto il dono ma il pensiero. Esatto, precisamente. Magari no, magari qualcuno doveva disfarsi di una vecchia pianta e quindi ne approfittava il regalo natalizio dai romani, come si vuole. No, e a proposito di pacchi, mi dai l'occasione per dire un qualcosa. A proposito di pacchi, stai attenta. No, so che sono una tirapacchi, però in realtà volevo fare che stiamo parlando di prosperità e di pacchi, quindi stai molto attenta, sono molto discreta, assolutamente non faccio allusioni altre. Torniamo ai pacchi veri e propri, cioè quelli natalizi. Allora, in Inghilterra il 26 di dicembre è nominato anche Boxing Day, ok? Boxing, si riconosce la radice? Box, scatola. Box. Perfetto, quindi scatola natalizia. Perché si chiama così? Perché era tradizione in passato mettere una scatola di cartone in chiesa il 25 dicembre, in cui tutti i fedeli mettevano qualcosina per i poveri, visto che comunque il Natale è la festa per antonomasia, diciamo, per donare. E il 26 questo pacco veniva aperto e i doni venivano poi e dispensati ai poveri. Quindi insomma questo gesto di generosità. Quella è una bella domanda. Io passo parola. Ecco, se non avete ancora fatto tutti i regali di Natale, dopo la pubblicità vi darò un consiglio per trovare degli oggettini originali e molto molto particolari. Ci vediamo dopo. Se io fossi il mago di Natale, farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento, dalle piastrelle del pavimento. Ma non l'alberello finto di plastica, dipinto che vendono adesso al Lupin. Un vero abete, un pino di montagna, con un po' di vento vero impigliato tra i rami, che mandi profumo di resina in tutte le camere e sui rami i magici frutti. Regali per tutti. Poi con la mia bacchetta me ne andrei a fare magie per tutte le vie. In via nazionale farei crescere un albero di Natale carico di bambole d'ogni quantità, che chiudono gli occhi e chiamano papà. Camminano da sole, ballano il rock and roll e fanno le capriole. Chi le vuole le prende a gratis, si intende. In piazza San Cosimato faccio crescere l'albero del cioccolato. In via Tritone l'albero del panettone e in via Buozzi l'albero dei maritozzi. E in largo di Santa Susanna quello dei maritozzi con la panna. Continuiamo la passeggiata. La magia è appena cominciata. Dobbiamo scegliere il posto dell'albero dei trenini. Va bene, piazza Mazzini? Quello degli aeroplanini lo faccio in via dei Campani. Ogni strada avrà un albero speciale. Il giorno di Natale i bambini faranno il giro di Roma a prendersi quello che vorranno. Per ogni giocattolo colto dal suo ramo ne spunterà un altro, dello stesso modello, o anche più bello. Per i grandi invece ci sarà magari, in via di Condotti, l'albero delle scarpe e dei cappotti. Tutto questo farei se fossi un mago. Però non lo sono, che posso fare? Non ho che auguri da regalare. Gli auguri ne ho tanti, scegliete quelli che volete. Prendeteli tutti quanti. Questo era Gianni Rodari che ci faceva fare una passeggiata per Roma. Però la nostra Jessica Spiro ha in mente qualcosa di forse ancora migliore. Che atmosfera sognante! È la stessa che possiamo respirare andando magari ai mercatini in Alto Adige. I mercatini in Alto Adige si svolgono dal 26 di novembre fino al 6 gennaio. Quindi avete un po' di tempo, se non sapete cosa fare durante le vacanze di Natale, per fare magari una bella gita. La distanza non è poca da fare in un solo giorno, perché si tratta di circa 300 chilometri, ma magari potrebbe essere l'occasione per fare un weekend romantico immersi nella neve. Anche perché abbiamo proposto un viaggio da fare in una notte e mezza con 6 ore di macchina andata e ritorno, direi. Quindi che qua siamo ancora... questa è assolutamente una passeggiata, ed è un motivo in più quindi per andarci. I mercatini si svolgono principalmente in 5 città, ognuno con delle caratteristiche diverse. Sono a Vipiteno, a Brunico, Bolzano, Bressanone e Merano. Ci sono però degli elementi comuni a ognuno di questi, come per esempio il profumo della cannella e delle spezie, il profumo del legno, dei dolci fatti in casa, del vin brûlé e degli abeti. Difatti, se voi andate in montagna in inverno, il profumo degli abeti è veramente molto intenso e fa veramente sognare. Sembra di essere in un posto nuovo, una specie di favola immersi nella neve. Altro che quelle candele profumate che a volte si comprano per far finta di essere a Natale. Andate nel posto autentico. Comunque le candele sono quell'elemento che fa sparire l'oscurità dell'inverno e che domina all'interno delle casette e all'interno delle case, in tutto l'Alto Adige. Quindi l'inverno diventa in qualche modo la festa della luce, come avevamo ricordato anche prima, nonostante l'oscurità. C'è anche un dolce che è comune a tutti questi paesi, spero di pronunciarlo correttamente, Lebkuchen, la cui forma cambia a seconda del paese dove viene fatto. Per esempio abbiamo la forma di angioletto a Bolzano, la forma di agnello a Bressanone, la stella per Brunico, la campana a Merano e la torre per Vipiteno. Questi sono degli elementi caratteristiche che ci aiutano a ricordare anche che cosa c'è di particolare in ognuno di questi cittadine oltre ai mercatini. E difatti Vipiteno è bella da visitare perché oltre ai mercatini troviamo un bellissimo centro medievale. E lo yogurt. Ah, fantastica! Brave, vedo che siete attente. No, io non lo mangio, scusate. Sì, Vipiteno uguale yogurt, è sinonimo. Ah sì? Sarà lo yogurt con la cannella comunque, visto che la cannella domina in ogni dolce. Bene, bene. A Brunico viene fatto invece un presepio antichissimo. Però io a Brunico non ci posso andare. Perché? Per non c'è lo yogurt. A parte quello. Ma perché io ho sangue asiaghese e ogni volta che vado ad Asiago a vedere una partita di hockey è sempre Asiago contro Brunico. E il Brunico di solito vince pure. Quindi non posso proprio andare a Brunico. C'è un'antipatia. Non posso, è proprio... Comunque potrei andare solo se l'Asiago va a giocare. Ma ad Asiago fanno il presepio come quello ma di no, Brunico? Ma no, che poi maggio. Ah, ok, va bene, quindi... Ad Asiago comunque c'è una bella mostra di presepi da tutto il mondo, nel caso vi interessasse. Ecco. Bene, allora, andremo a vedere entrambe le città, sia Asiago che Brunico, e giudicheremo, insomma, il presepio più bello. E andremo magari a vedere la partita di Natale tra le due, tifando Asiago, rigorosamente Asiago. Viva okay. Asiago! E invece a Bolzano, se volete andare, giusto se non volete andare a Brunico o ad Asiago, abbiamo un bosco incantato da visitare. Non ci sono mai stata e comunque se qualcuno ci è andato potrebbe dirci che cosa c'è all'interno di questo bosco incantato. Magari ricordiamo anche come fare a comunicare con noi, così giusto un attimo per... Esatto, ecco. Dici pure. Quindi potreste contattarci o tramite un'email a radio@radiosandona.it. Oppure potete cercare su Facebook Lipstick Lagoon. Adesso veniamo in vostro soccorso con... Datemi una L, datemi una I. Esatto, no. L come Lapponia, I come inno di Natale, P come palle di Natale, S come stella cometa, T come tronco dell'albero di Natale, I come inno, C come canto di Natale, K come K. K come... K come King Kong. Koala. Ecco, sì, che è natalizio. Esatto. Bene, non avevo capito niente. Lagoon, luce di Natale, A come albero, G come gioia, O come offerta, O come osanna e N come Natale. Ma non vi ricordate tutto, vero? Scusatemi, secondo me il vin brulè non ha bruciato tutto l'alcol. Bene, vi lascio solo con un ultimo elemento, che è quello che a Bolzano c'è una specie di calendario dell'avvento, come quelli che noi abbiamo magari nelle nostre case fatto di cartone, solo che questo è un calendario dell'avvento gigante perché occupa l'intera facciata di un palazzo. E anche i cioccolatini sono giganti? Magari, no. Bisognerebbe scoprirlo. Comunque, aprendo ogni giorno una finestra diversa, dietro si nasconde una sorpresa. Sarebbe il regalo di Natale perfetto. Quindi se non sapete cosa farmi quest'anno, George Michael. Oddio, se fossi ti regaliamo un uomo, i George Michael. Perché non sa importa. Che purtroppo la speranza è sempre l'ultima a morire. Per favore. Torniamo invece a cose più reali. Tra i mercatini da visitare abbiamo quello di Merano, dove è possibile appunto acquistare degli oggettini in feltro, come le pantofole, i cuscini, oppure tovaglie e tovaglioli, oppure dei regalini fatti con legno, come i vecchi giocattoli tradizionali. Quindi sicuramente se regalate un oggettino appunto per la casa, oppure un giocattolo di questo tipo, farete appunto una sorpresa gradevole, e nessuno potrà imitarvi. Posso richiedere le pantofole calde, perché ho sempre piedi freddi? Allora adesso so cosa regalarti, ecco, per Natale. Il mio desiderio per Natale. Bene, un bel paio di pantofole con le stelle alpine, cosa dici? Calde. Ti direi che sono molto originali, va benissimo. Insomma, avrete l'occasione di unire un bel giretto appunto con l'ultimo shopping, esatto, con l'ultimo prima shopping di Natale. Il cosiddetto unire utile. L'utile al dilettevole. Se invece l'Alto Adige è troppo lontano, possiamo andare nel Trentino, in Valsugana precisamente, a Levico Terme. Si parla di circa 180 km, quindi la metà del tempo per arrivarci. Anche qui ci sono delle casette per i mercatini, ma qui si fondono due culture, ossia quella altoatesina e quella asburgica. E tradizionale, consiglio a tutti, è la passeggiata a bordo di una carrozza trainata dai cavalli. Sì, che una cosa romanticissima. Ecco, se non sai cosa regalarmi, voglio una carrozza con i cavalli, va bene. Per sentirti una specie di sissi. Sì, ecco, se proprio non sai cosa fare. E sarà soprattutto comodo da usare per le strade, nessuno ti suonerà il clacson. Non posso, assolutamente. Però ci sono io dietro. E se vi viene un langorino comunque, perché tra lo shopping, tra la passeggiata in carrozza, insomma, può venire un certo appetito, potete gustare le caldarroste, il miele e soprattutto la luganega e la mortadella, dei piatti leggerissimi e facili da digerire. E poi avete da dire contro la colazione inglese, cioè non ho capito. Scusa un attimo, la colazione inglese prevede il bacon e prevede tutta una serie di uova, due bacon, uova. La mortadella è più pesante, dai insomma. La mortadella è più pesante del bacon. Lo andremo a vedere su Google. Verifichiamo, bisogna sempre testare, quindi la luganega, la mortadella per Natale potrebbe essere un altro regalo. Io poi per i regali avrei anche un'altra idea, visto i tempi di crisi economica nei quali viviamo, magari non abbiamo molti soldi da spendere. Assolutamente. Un'idea carina per i regali di Natale di quest'anno potrebbe essere quella dei regali riciclati, che non è una cosa brutta come sembra. Cioè, tutti quanti abbiamo la casa un po' piena di roba che neanche ci ricordiamo più di avere, giusto? Giusto. Ecco, quindi l'idea sarebbe quella di fare una caccia alle cose che non ci ricordiamo più di avere, ovvero mettiamo una, si fa una caccia a vedere tutte le cose che l'altra persona alla quale vogliamo regalarle non si ricorda più di avere, e quindi è una specie di una sorta di un regalo rifatto, riciclato in questo senso, perché tutta roba che già abbiamo in casa, ma che per noi è come non avessimo, perché non ci ricordiamo più di averla. Però attenti a non regalare quello che una persona quello che ci hanno regalato loro. Ma non sono le cose tue, tu devi andare in cerca delle cose del tuo compagno o dei tuoi genitori, rubarle agli altri. Vedere la cosa che quell'altra persona possiede, ma che non si ricorda più di possedere. Quindi se mio papà per caso cerca quel rasoio, quel paio di ciabatte o quella cosa particolare, dice: ah, non ce l'ho più, probabilmente l'ho fregata io per rubarla a un altro. No, l'idea sarebbe quella in realtà. No, abbiamo capito il gesto, dai. Abbiamo capito. Allora, deve essere un'idea. Però è carina questa, effettivamente, sì. Quella di far sparire una cosa e dopo dire che magari odiamo in che casa. Ti manca questo. Ma cos'è quella cosa che avevi? Sicura che ce l'avevi? Per ce l'era la Kelly. Ah, no, è tutta nelle vostre case. Ho tutto io. Yeah. Quindi Natale è un momento perdonare se stessi prima di tutto, però perdonare anche effettivamente qualcosa di, insomma, tangibile. L'importante è che ci sia effettivamente il pensiero, quindi sono qui per proporvi delle idee low cost, però belle, insomma, da presentare, perché io sto ridendo, io non capisco, voi non vedete perché ci state ascoltando, però io ho tre ragazze che mi stanno ridendo. Perché tu a Natale vuoi donare te stessa, quindi tra palle di... Ma io non so, veramente vedono sempre così. Siamo malefiche. Siamo malefiche. No, Nadia, hai ragione. Torniamo in noi, allora. Torniamo a... al dolce. Allora, povera signora, oppure bambini, insomma, le persone a cui piacciono le cose un po' dolci, la cosa tradizionale e migliore da regalare fatta da noi sono i biscotti. Esatto, i biscotti. Allora, cosa banale, però dovete avere la ricetta giusta, la ricetta perfetta. Questa è testata, la ricetta per la pasta frolla migliore che ci sia, quindi annotate: 250 grammi di farina 00, 100 di burro, che mi sono già persa, non sono riuscita a scrivere niente. 200 farina, 100 burro, 100 zucchero, un uovo, una bustina di vanillina e mezza bustina di lievito. E gli stampini con le formine. Esatto, infatti, detto questo, amalgamato e preparato l'impasto, quindi pronta la frolla, si stende con il mattarello fino ad ottenere una sfoglia di circa 3 mm. A questo punto arriva la fase più divertente. Arriva la parte appunto creativa, che potete, in cui potete anche coinvolgere i bambini, quindi se avete nipoti o sorelle, fratelli piccoli, dite: mamma, cosa ti faccio fare oggi? Sono qua che stanno distruggendo la casa, portateli a fare i biscotti. Come si fa quindi, appunto, Rachele? Prendete le formine, soldatini, stelline, cuoricini, quelli che avete, e cominciate ad intagliare i biscotti. Ricordate anche di decorare i biscotti e di farci il forellino, perché poi ci andrà applicato un nastrino e verranno poi eventualmente appesi anche all'albero, possono diventare decorazioni. Bellissimo. Però foro e decorazione con gli zuccherini colorati sono da fare con la pasta a crudo. Poi mettete i biscotti preparati su carta da forno e li infornate in forno preriscaldato a 180 gradi per 15 minuti. Mi piace questa cosa di appendere all'albero cose da mangiare, così ogni volta che uno passa per vicino all'albero si dia qualcosa da mangiare. E poi anche una cosa pratica, perché dopo il Natale bisogna disfare l'albero, rimettere tutto a posto. In questo caso non bisogna mettere a posto niente, perché tu non lo si mangia, tutto è digerito, commestibile. Benissimo, quindi questo è il primo regalo dolce. Poi passiamo ad un regalo, perché ovviamente non tutte le amiche sono uguali, parlo di donne, però vabbè, insomma, sentitevi coinvolte anche voi uomini. Se avete amiche o amici intellettuali, potete preparare per esempio un piccolo segnalibro. Ah, potete anche eventualmente allegarlo ad un libro, magari se avete un budget un po' più elevato, un libro e poi un qualcosa fatto da voi stessi, quindi un segnalibro. Semplicissimo, accendete il computer, aprite Word, create dei format rettangolari, stampate su cartoncino colorato, plastificate eventualmente, forate anche là, applicate un nastrino decorativo e poi potete decorare il vostro semplicissimo segnalibro con brillantini, con feltro, con piccoli pezzi di stoffa che magari trovate nei cassetti, bottoni, cose che magari di cui magari dite cosa che dovete buttare via, insomma. Esatto, quindi mi regancio anche a te, Rachele. Riciclate regali, riciclate anche pezzettini vari per fare regali. Ma e la colla vinilica di Art Attack non la usiamo? E le punte arrotondate delle forbici? Ecco, l'importante è essere creativi, quindi anche colla, ma colla effettivamente molto resistente, non serve tanto su cartoncino, Prit, come si chiama? Prit. La cucolina, cosa dite? La cucolina, anzi. Bella che ci tagliamo con una calzina. La creatività è tutto Natale. Vai, Rachele, a te la scelta. Jerusalem.

si due persone tirano un estremo, i bastoncini, coppia, e c'è la sorpresa. Esatto, c'è la sorpresa, la barzelletta di Natale e il cappello che si indossa. È davvero come nel pudding, o come cavolo si dice, mettete le monetine. Certo, per fare la fortuna dei dentisti dopo Natale. Esatto, chi trova la monetina, il penny di bronzo, oppure era forse un 5 penny di d'argento in precedenza, farà la fortuna tutto l'anno. Però se non trovi penny, comunque trovi qualcosa di buono, perché il pudding viene praticamente alimentato, proprio viene fed in inglese, con whisky, perché si prepara molto in anticipo, a partire da ottobre, novembre, ed ogni 10 giorni fino ad arrivare a Natale si fora il pudding, e dentro viene inserito del brandy o del cognac, quindi è ben, diciamo, potente come dolce, quindi anche se trovate la monetina, comunque siete contenti lo stesso. Esatto, siete veramente merry. Merry. Quindi chiudiamo, e a tutti voi una bella canzone per renderci, insomma, ancora più natalizi. And so this is Christmas, and what have you done? Another year. E ormai siamo giunti quasi alla fine. Vorremmo ricordarvi i nostri contatti, così se volete mettervi in contatto con noi, appunto, o scriverci o darci la vostra opinione su quello che è stata questa puntata, suggerirci nuovi argomenti per le puntate future, potete farlo, o anche trovare nuove curiosità su queste puntate che stanno andando in onda. Insomma, se volete scriverci una mail, potete scriverci a radio@radiosandona.it. Oppure, se volete trovarci in Facebook, potete trovarci digitando Lipstick Lagoon e iscrivendovi alla pagina che verrà fuori. Come si scrive Lipstick Lagoon? Allora, questa è la cosa un po' più complicata. Facciamo lo spelling. Abbiamo L come Lapponia, I come inno di Natale, P come palle di Natale, S come stella cometa, T come torrone, I come inno, C come canto di Natale, K come Klaus, di Santa Claus, se lo scrivessimo con la K, L di luci di Natale, A di albero, G di gioia, O di offerta, O di osanna e N di Natale. Benissimo, e dopo esserci immersi in questa atmosfera magica di Natale, io vado a preparare la pasta per i biscotti. Sì. E io vado a comprare il guaiasnello per il presepe. Io sarà meglio che vado a comprare i regali, se no mi dimentico come ogni anno. Invece io voglio lasciarvi con un pensiero. L'albero di Natale è perfetto? Tutti gli alberi di Natale sono perfetti. Quindi andiamo a fare l'albero di Natale. Ciao a tutti. Ciao. Io vado a fare le palle. Io porto le palle. Tu porta i nunnu. I nunnu.